Noi oggi abbiamo una grande opportunità, che è un'opportunità di ripensare il modo di gestire lo Stato. Perché dico lo Stato? Perché lo Stato può essere il driver vero di questa operazione. E pur in un momento di risorse ridotte, una reingegnerizzazione delle risorse può probabilmente consentirci di avviare questo processo. Le potenzialità sono enormi, qui ci vuole molta più intelligenza. Questo è il vero tema, ci vogliono competenze. E ecco, torno al perché secondo me il vero investimento è sulla scuola, perché è questo. Ed è un investimento culturale e non tanto tecnologico. Credo che sbaglieremmo se pensassimo che tutto viene risolto dalla tecnologia oggi.